Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccomi qua, buongiorno da Nicoletta. Tante volte sentiamo il bisogno di staccare la spina e alla fine dell'anno questo bisogno si fa impellente. Meritiamo un po' di riposo, è necessario, fisiologico, vitale, proprio come l'aria che respiriamo. Possono bastare poche ore o pochi minuti, A volte sono necessari invece dei giorni. Molti riescono a raggiungere lo scopo perché hanno ben chiaro cosa, dove, come fare per raggiungerlo. Per altri, come per me, la ricerca è ancora in corso e la stanchezza confonde, a volte una cattiva consigliera che rischia di farci perdere tempo, sprecare energie. Insomma, chi di voi non è tornato da una vacanza dicendo non so come mai eppure sono più stanco di quanto sono partito? Carmelo Lauricella, che in regia la parte tecnica, vedo che annuisce e quindi anche a lui è capitato. Allora, sia per chi parte per regalarsi qualche giorno di riposo e di svago, sia per chi invece staccherà solo in occasione di Capodanno, oggi consigli e strategie per sfruttare il tempo libero a nostro vantaggio. Convinciamocene, il riposo non è buttato o sprecato, ma è un tempo assolutamente necessario per ricaricarci e metterci nelle condizioni di vivere bene. Siete d'accordo? 800 24 00 24. Credo che ciascuno di noi debba trovare, alcuni ce l'hanno già, il luogo ideale in cui rifugiarsi, nel quale si rifugia, può essere il parco, perché no, in cui si va a correre al mattino, si fa la passeggiata con il proprio amico a quattro zampe, la propria camera da letto, il bagno di casa, o ancora una piazza, un sentiero di montagna, un angolo di mare, una città magica. Ok, allora abbiamo finito. Sentite, andiamo via per qualche settimana. Ho bisogno di un po' di pace e di tranquillità. O di quello per cui le persone vanno in vacanza. Sapete che cosa vorrei fare davvero? Io vorrei mangiare carboidrati senza sentirmi in colpa. Vorrei leggere un libro, non solo un settimanale, un vero libro. Ok, allora dove voglio andare? Natale in campagna. Un cottage inglese da favola, immerso in una tranquilla campagna. Accoccolarsi davanti a un vecchio camino in pietra con una tazza di cioccolata. Un'incantevole oasi di tranquillità in un quieto paesino inglese a soli 40 minuti dalle seduzioni di Londra. Sì. Sì, ditemi qual è il vostro luogo preferito, il luogo in cui amate ricaricarvi, 800 24 00 24, perché lo avete eletto a preferito. Ma oltre al luogo perfetto c'è anche il momento perfetto. Per qualcuno la prima mattina, appena svegli, quando tutto è ancora silenzioso, oppure il rito del caffè, dopo pranzo, ancora la lettura, prima di addormentarsi, di quel libro lasciato sul comodino, da qualcuno considerato come l'unico vero lusso di una giornata in cui non c'è neanche un minuto per sé. Qui in studio con me ho il professor Roberto Manfredini, direttore della clinica medica all'Università di Ferrara. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Mi viene da ridere perché spesso la spedivo a Firenze, le prime volte che ci conoscevamo, esperto di cronobiologia. Professore, il nostro organismo è regolato da più orologi interni che scandiscono le nostre funzioni biologiche e la cronobiologia è la scienza che si occupa di questi ritmi, dovrei dire bioritmi. E allora l'idea è questa: conoscerli può aiutarci a vivere meglio, perché c'è l'ora ideale per ogni cosa. È vero. Intanto i colleghi fiorentini, sentendo il mio accento, non si sbaglieranno mai, quindi è totalmente impossibile che venga da Firenze. È vero, c'è un momento per tutto nella giornata. Diciamo che così molto semplicemente il mattino è ideale per quello che riguarda la testa, sì, e se vogliamo anche le mani, cioè le attività fini. E poi abbiamo la pausa pranzo, dove subito dopo c'è un momento un pochino di crisi per tutti, la cosiddetta post lunch dip, detta all'inglese, ma comunque anche se uno non mangia ha un momento, sì, di poca attività. Poi di nuovo il pomeriggio sarebbe il momento ideale ancora per la testa e per i muscoli, per il fisico, per le attività diciamo atletiche. Quindi se volete avere delle indicazioni chiamateci 800 24 00 24 e diteci come vi caricate, come vi ricaricate, dove andate, cosa fate e a cosa pensate. Però iniziamo a capire a che parte di mondo apparteniamo. Siamo di quelli che per staccare la spina devono infilarla in un altro interruttore, quelli che cioè per riposarsi devono comunque fare, rimanere in contatto, ricevere stimoli, oppure siamo invece di quelli che si riposano rifugiandosi altrove, in senso lato? Qui in studio con me è tornata a trovarci la dottoressa Monica Piccinni, psicologa e psicoterapeuta. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti. Allora, ci aiuta a capire un po', proviamo a tratteggiare fare dei profili? Allora, sicuramente possiamo parlare di benessere psicofisico, quando il corpo e la mente sono in equilibrio tra loro e anche in armonia però con l'ambiente che ci circonda. Quindi non c'è una ricetta univoca per tutti, ma e poi cambia con gli anni, tempo, naturalmente, tempo, certo. Sì, ma ci sono dei profili che viaggiano anche in base a quelle che sono le nostre caratteristiche di personalità e il modo in cui noi ci confrontiamo col nostro ambiente, la cultura di riferimento, i propri valori, i propri principi. Quindi quello che possiamo dire essere un concetto fondamentale è il concetto dell'autoconsapevolezza, cioè capire e rendersi conto di quello che vuol dire per noi stessi un benessere psicofisico. La domanda principale, secondo me la domanda magica, è farsi la domanda di quando l'ultima volta ci siamo sentiti bene, dove e quando. 800 24 00 24. È necessario, professor Manfredini, comunque trovare la formula per riposarsi, anche se ci sono delle persone che per sentirsi bene devono stancarsi fisicamente, se no non ce la fanno, se no la testa continua, oppure invece persone che per staccare la spina devono darsi a delle attività che sono la lettura, magari la fotografia, ascoltano musica. È come se ci fossero persone fatte in modo diverso, quasi. Come mai? Dunque, intanto diciamo che il ritmo guida dell'organismo è sempre stato luce buio. Sì. Questo è cambiato da quando è stata introdotta la luce artificiale, quindi ha permesso di poter fare anche di notte delle cose che si facevano solo di giorno, compreso il lavoro. Ed è diventato molto importante il ritmo attività-riposo. Quindi è uno dei ritmi che adesso determinano il nostro benessere. Quindi per riposo può intendere, giustamente come ha detto lei, o il riposo sick, quindi leggere un libro o guardare la televisione, ma anche il riposo da quello che uno fa facendo un'altra attività. Quindi un'altra attività anche faticosa, se presa come riposo, è benefica. Per esempio, c'è chi, io sono un pigro totale, ma sì, c'è chi fa giardinaggio pesante, c'è chi fa bricolage, cioè un lavoro che io reputo durissimo, ma sì, c'è chi lo fa per riposo. Dottoressa Piccinni, l'importante è trovare la nostra formula e soprattutto provare a rispondere alla domanda che lei ha rivolto ai nostri ascoltatori, cioè quando voi vi siete riposati, quando vi siete sentiti in davvero armonia. Bene. 800 24 00 24 se volete intervenire con noi. E poi una cosa che fa la differenza è: da soli o in compagnia? Dottoressa. Sì, questo è un altro elemento discriminatorio, perché in base anche al nostro modo di essere e di nuovo alla nostra personalità, noi possiamo identificare dei modi diversi di comportarci e relazionarci col mondo. Quindi ci sono persone che si rilassano da soli facendo delle attività individuali come attività fisiche, attività di relax, e persone invece che per scaricare la tensione, per rilassarsi, preferiscono relazionarsi col mondo esterno, quindi fare una chiacchierata con degli amici o una cena e quindi poi di conseguenza riposarsi. Marco ci chiama da Milano all'800 24 00 24. Marco, buongiorno. Da solo, in compagnia, dove, come, quando e perché? Ci dia la sua ricetta. Buongiorno a voi. La mia ricetta è semplicissima. Io sono agente di commercio, quindi giro e vedo persone tutti i giorni, ne vedo veramente tantissime. Il mio momento di relax è la mia poltrona, i miei 10 minuti la sera con i quali riesco a spegnermi completamente e proprio immergermi un attimino in questo periodo, poi anche di torpore, quindi in realtà me la godo e mi rilasso veramente tantissimo. Poi come sentivo prima la dottoressa, anche con le cene con amici, certo sono meno frequenti della mia poltrona, però certo anche quelli portano tanto tanto tanto relax. Di che colore è la sua poltrona, Marco? La mia poltrona è beige. Beige, e ha una spalliera comoda? È una seduta eccezionale, sono di una famosa catena, non so, non lo dico. Sì. No, ma non volevo fare pubblicità, volevo provare. È estremamente comoda. Volevo visualizzarla, Marco. Perché braccioli rigidi, uno schienale molto ampio, e, ci si sprofonda all'interno in realtà, anche se dondola, quindi dà proprio quel sentore di veramente di abbraccio. Di abbraccio, Marco. Perché ho fatto questo gioco della visualizzazione, vedevo che la dottoressa Piccini mi guardava con, era soddisfatta di me, brava. È vero. Perché visualizzare è una, la visualizzazione è una tecnica che viene utilizzata anche, viene suggerita alle persone proprio per rilassarsi. Io quando vado in un bel posto guardo bene l'immagine e cerco di archiviarla, io dico dentro il mio cuore, sarà dentro il cervello, ma quell'immagine lì ne seleziono pochissime e le tiro fuori nei momenti in cui ho bisogno di ricaricarmi, di rilassarmi, insomma un album fotografico che tengo dentro di me, dato che io sono una frana nella, con le fotografie. Dottoressa. Guarda Nicoletta, probabilmente senza saperlo metti in atto una di quelle delle tecniche, diciamo, di relax, di rilassamento, ma più che altro di ridirezionamento del pensiero, che vengono utilizzate adesso tantissimo nella pratica psicoterapica di terza generazione, quindi quello che ha a che fare con la cognitivo comportamentale. Quindi parliamo di mindfulness, sì, che è proprio il concetto di autoconsapevolezza. Focalizzo un'immagine, un ricordo, un'emozione, un odore, un colore della mia vita che mi ha suscitato delle emozioni positive, e con quelle emozioni positive rimango in quella sensazione, e di quella sensazione godo per rilassarmi. Allora, noi oggi abbiamo pensato di strutturare un po' la puntata facendo riferimento ai cinque elementi naturali: aria, acqua, parleremo del fuoco e della terra, e cercheremo di utilizzarli per trovare degli spunti di relax, per rinascere, per rigenerarci. E quindi io direi di iniziare dall'acqua. Tutti noi sappiamo che l'acqua è fonte di benessere. Quando siamo stanchi, non ce la facciamo più, tante volte si scivola dentro la vasca da bagno e come per incanto se ne esce in qualche modo, poi magari il professor Manfredini mi spiegherà perché, si esce quasi nuovi, eh? Però ci sono delle acque che hanno delle proprietà particolari, sono le acque termali, immergiamoci. In linea con noi abbiamo il professor Solimene, direttore della Scuola di Specializzazione di Idrologia Medica e Medicina Termale all'Università di Milano e autore del libro Medicina Termale Red Edizioni. Professore, buongiorno, bentornato. Buongiorno a voi, grazie a voi, tutti auguri. Grazie. Professore, bagni termali, fanghi e molto altro ancora, la clinica della natura è aperta, certo, e pronta per ricaricarci e rilassarsi. Rilassarci, certo. Perché sono due, no? Due cose ben distinte, ma possiamo, c'è chi ha bisogno proprio di ritrovare energie e invece chi di, no, togliere, eliminare, certo, un pochino tutte, certo, quelle tensioni, quelle tossine in senso lato che come una ruggine ci impediscono di funzionare bene. Certo. Allora, noi ci affidiamo a lei, dove ci porta? Io la porto in un viaggio che potrebbe essere considerato alla riscoperta del proprio corpo, perché in realtà quando lei parlava prima, e sentivo anche la collega che parlava delle tecniche di rilassamento, in realtà andare in fare un soggiorno termale anche breve, sì, utilizzando acque termali, quindi acque naturali verificate, controllate dal punto di vista scientifico, dal punto di vista medico e dal punto di vista chimico, ovviamente ci porta a riscoprire delle sensazioni fisiche che ci fanno ed emotive, che ci portano a riscoprire il proprio corpo, che noi dimentichiamo. Viviamo in un mondo virtuale ormai praticamente, dove fra poco non sapremo più neanche scrivere, tenere in mano una penna forse, e quindi questo ci porta a scoprire che abbiamo due braccia, che abbiamo un sangue che circola all'interno, che abbiamo tutto delle sensazioni tattili, olfattive, auditive, eccetera. Quindi questo è il primo risultato, sì, importante. Poi il relax è importante, l'acqua calda, l'acqua termale, terapeutica, indubbiamente porta a tutta un'azione sui muscoli, di rilassamento muscolare, di rilassamento psichico, che ci porta in un altro mondo, diciamo, ci fa fare una rottura positiva verso un ritmo di vita che diventa sempre più impegnativo. Professore, ci sono acque e acque? Certo, le acque si può dire. Le acque che, per tirarci su quali sono? Le acque per tirarci su sono acque Direi che non sono, sono termali in senso minerali, ma non come temperatura. L'acqua che è stimolante è un'acqua piuttosto fredda, diciamo. Quindi se noi abbiamo bisogno di fare di avere un po' più di tono, direi che dobbiamo usare acque che sono a temperatura inferiore a quella corporea, quindi che ci danno una vaga una sferzatella. Ci danno una sferzatella. O addirittura la cosa migliore è fare un percorso che sia acqua fredda, acqua calda, e quindi ci dia questo stimolo di vasodilatazione e di vasocostrizione, quindi ci si sente, diciamo, più tonificati. Certo. Tonificati. Al contrario, invece, quando vogliamo rilassare la muscolatura, certo, anche, vogliamo dire, anche la mente, perché poi, certo, no, la testa si parla con il resto del corpo, l'abbiamo detto tante volte, io questo voglio fare, quelle un po' più caldine, che mi piacciono di più. E ricche anche di sali minerali, mineralizzate, quindi sono acque salsomoiodiche, che hanno un'azione, quindi sono acque di antichi mari che sono stati poi sepolti, diciamo, che però hanno conservato nel loro serbatoio idrico, tipo il bacino della pianura padana, pensiamo alla ricchezza delle acque termali dell'Emilia Romagna, per esempio, in questo senso, quindi alla Sasso Maggiore, al Bagno di Romagna, eccetera, Fratta, cioè, c'è una varietà, l'Italia è un paese ricchissimo di acque termali molto qualificate. Abbiamo quindi acque salsomoiodiche, sì, acque che invece ricche di magnesio invece possono essere stimolanti per tutta la parte diciamo muscolare. Sì. Non a caso ci sono dei centri, per esempio nel centro Italia, dove anche gli sportivi possono avere un bagno, fanno i bagni dopo attività fisica, eccetera. Sì. Quindi possono avere questa, non dico ricostituzione, ma stimolo neuromuscolare. Il magnesio è un elemento molto importante anche nelle acque da bere, questo, sì, come acque minerali da bere, e quindi è un elemento che è stato sottovalutato, ma che adesso è in fase di rivalutazione completa. Sta recuperando il magnesio. Certo. Professore, quindi basta poco per staccare. Basta poco, uno dice l'acqua calda, ma un'acqua calda termale, per un'acqua calda verificata dal punto di vista igienico, dal punto di vista medico, anche perché, attenzione, ci sono anche delle controindicazioni precise, per esempio che persone che soffrono di ipotensione, quindi persone basse, e un bagno in acqua calda non va bene. Quindi non è che quando uno dice hai scoperto l'acqua calda, dire che alle terme si sta bene, però è anche provato, vero? No, certo, è provato, ecco, con tante ricerche. Guardi, io più adesso sono qui a computer, sono ricevuto adesso delle ricerche molto interessanti sul campo delle osteoartrosi delle mani, per esempio, sì, e poi del mal di schiena. Ci sono delle ricerche molto importanti sul mal di schiena, per esempio terapie fatte di tipo farmacologico e non farmacologico, problemi del ginocchio, artrosi del ginocchio, per esempio. Le terme sono non alla panacea, ma possono essere, diciamo, molto, che molto ci danno una mano, molto, certo. Professore, grazie. Grazie, grazie a lei, buonissima giornata. Grazie, speriamo, incrociamo le dita. Intanto molti di voi ci scrivono che come si riposano, anche il luogo, ad esempio il Parco degli Eucalipti dell'Eur, frequentato, dice, dai cani con i loro padroni, due chiacchiere, bellezza assoluta del verde, e poi incontrare anche l'amore. Sì, perché dottoressa Piccini, lei lo sa che ai supermercati e anche a passeggiare con il proprio cane si incontra. Certo. 800 24 00 24, e allora lì sì che ci si rigenera. Teresa dalla provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno, devo ascoltare per radio o spegnere? Allora basta che lei ascolti per telefono, perché io allora abbasso radio, se no è fantastico. Allora buongiorno a lei, signora Nicoletto, stavo ascoltando mentre facevo la cucina. Ecco, io tocca sempre a noi, Teresa. Ma adesso magari il professor Manfredini ci dice c'è un'ora ideale, cosa dice la cronobiologia per dedicarsi ai lavori domestici? Ma le mani vanno bene al mattino. Sono molto attive al mattino, quindi credo che da noi si chiama Sdora, la signora che tira la pasta o che fa le ricette, che fa i manicaretti, credo che quella sia una buona finestra. Ecco, bene. Per cui Teresa, è l'ora giusta. Sto facendo una minestra di avanzi di verdura, quindi faccio un minestrone. Buono, va bene, ma ci si rilassa anche cucinando. Molto. Comunque io abito, diciamo, in Piemonte, dove lo stress non manca. Va bene, ma quello riesco, da... Sì. ecco, non riesco mai a, diciamo, a rilassarmi, perché anche la giornata è sempre piena così. Mm? E dunque, io sono della Basilicata, sì, un paesino in montagna tipo 800 metri. Quando vado al mio paese, io sembra che ci sia un anno, ma ci sono solo due settimane, però io mi carico per tutto l'anno. Sì. Poi quando vengo a casa, se voglio rilassarmi mentalmente, così, sì, solo proprio astrattamente, io penso alla stradina del mio paese, il mio piccolo loggetto, e tutte le persone, e io mi rilasso, basta pensare a quello, io mi rilasso da morire. Quando è che andrà nella casetta in Basilicata, che vengo pure io? Che così. Sono andata a settembre, tornerò verso giugno. Così. Allora, nel frattempo è fuori con le foto scattate e archiviate. Ecco, infatti non sono bravo per le fotografie, ma io ma dentro. Grazie. Le registro in mente. Brava Teresa, e intanto buon minestrone, buona giornata. Andiamo da Ivo, che ci chiama dalla provincia di Ancona. Buongiorno Ivo. Buongiorno a tutti voi. Volevo dire una cosa curiosa, io chiaramente mi rilasso cercando di prendere tutta la famiglia e andare a visitare un luogo che non avevamo mai visto prima, e tra le cose rilassanti c'è anche il prepararsi il viaggio, l'itinerario, leggersi le guide, vedere i consigli in giro, anche se qualche volta può portare un po' di stress, perché effettivamente bisogna anche decidere e organizzare, trovare il luogo giusto e questo genere qui. E quindi, insomma, comunque il viaggio per lei è fonte di relax. Sì, prendere la macchina e anche l'organizzazione del viaggio. Sì, prendere la macchina e partire per me è molto rilassante quando poi poi con me ho tutta la famiglia. Vede, quando si dice Ivo andare altrove, perché ci sono delle persone, ma intanto voglio coinvolgere i miei ospiti che gentilmente sono qua in studio con me, che hanno proprio bisogno di cambiare ambiente per staccare la spina, cioè se fanno anche, e poi magari vanno in un'altra città a fare le stesse cose che potrebbero fare nella loro, vedono la mostra, vanno al cinema, vanno a prendere un aperitivo, magari. Bisogna cambiare proprio in qualche modo, così, ambiente, sì, panorama. Perché? Guarda, mi rifaccio al concetto proprio di cambiamento. Fondamentalmente quando cerchiamo dentro di noi qualcosa di diverso, andiamo verso naturalmente il cambiamento del luogo, è fondamentale, perché lì è come dire, faccio qualcosa di diverso per me, quindi mi ritaglio del tempo da dedicarmi, che non sia naturalmente del tempo nello stesso luogo. Il luogo è fondamentale perché è fonte di autogratificazione, quindi ho fatto qualcosa di diverso in un altro posto e i miei occhi, i miei sensi in qualche modo si sono rigenerati diversamente. Voilà, professor Manfredini, vede, basta poco, prima dei mercati una battuta. Sì, quello è vero. Io per esempio che lei sono... mi arriva da Ferrara. No, io sono stressatissimo dai viaggi perché devo viaggiare molto, abbastanza per lavoro, e invece mia moglie piace moltissimo, quindi quello che mi stressa è il viaggio di per sé, mentre sono d'accordo con il nostro ascoltatore, prendere la macchina e andare è molto bello, non perché ti sta di fianco che deve fare il navigatore, perché sono molto esigente, ma il fatto di così del corto raggio con la macchina, la propria libertà, è bellissimo. È bello anche prendere l'aereo e andare in un posto, ma la fase del viaggio, quando inventeranno il teletrasporto, sarà una cosa, chissà, magari, molto particolare. Buona idea. Magari ci sta pensando qualche nostro ascoltatore. Essere e benessere. Ci siamo tornati, l'abbiamo fatto in modo un po' rilassato, perché ho visto che Carmelo diceva, allora parli, sì, me la sto prendendo comoda perché voglio iniziare a rilassarmi, perché poi domani, ultimo giorno di diretta, poi abbiamo il weekend, se io arrivo troppo carica e poi non riesco più a riposarmi, se sono montata un po' come una sveglia, spegnere è difficile. Stiamo facendo un viaggio per offrirvi degli spunti di riflessioni, di rilassamento. Molti ce li state regalando anche voi e di questo vi ringrazio, perché a me piacciono un sacco le vostre telefonate 800 24 00 24. Lo facciamo partendo un po' dagli elementi naturali. Abbiamo parlato di acqua, professor Manfredini, e non a caso noi sentiamo nell'acqua questa sensazione di benessere. Certo, perché dobbiamo ricordare che se siamo la nostra pigrizia dentro di noi viene dai 9 mesi che abbiamo trascorso nell'utero della mamma, e quindi lì c'era un ambiente liquido, c'era l'acqua, qualcuno pensa per te, non ci sono ancora i ritmi perché li sviluppa il bimbo, li comincia a sviluppare appena nato, quindi direi la pace totale, quindi capisco il relax dell'acqua. Fantastico, e dopo l'acqua io andrei all'aria. Dottoressa Piccini, si dice ho bisogno di aria, no? Ho bisogno di cambiare aria, per dire che abbiamo bisogno di rigenerarci, quindi di ricaricarci. Il relax è anche questo. Sì, certo. Allora, partiamo dal presupposto che numerose ricerche evidenziano l'importanza di una respirazione adeguata. Una respirazione efficiente, una respirazione armonica produce uno stato di equilibrio psicofisico molto importante, che dà all'organismo la possibilità poi di appunto rigenerarsi. Tanto che una delle tecniche più importanti di rilassamento naturalmente si rifà alla tecnica di respirazione lenta, una tecnica diaframmatica che riprende oltretutto la meditazione orientale. Quindi basta impararle ed è semplice, e poi tutte queste endorfine che girano, professor Manfredini. Sì. Mi sembrano delle vallette vestite con dei colori sgargianti che ci portano su. Beh, diciamo che sono... Come se le vede lei le endorfine? Ma me le vedo come dei genietti che... Lei le vede maschili le endorfine? No, sono dei genietti, sono asessuate secondo me, sì. Sempre molto attive, danno questo senso di up e sono anche un po' birbantelle perché possono dare anche un po' di dipendenza, quindi per esempio correre o fare attività per alcune persone, per molte persone non riesci a staccare perché in effetti danno un'autogratificazione tale che insomma le cerchi continuamente ma a proposito di attività sportiva lei è stato perfetto, mi ha lanciato proprio la palla, meglio farla a proposito di aria all'aria aperta. Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls and circle forward. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Per i muscoli forse è la stessa cosa, ma non per il cervello e l'umore. Fare sport all'aria aperta genera infatti benefici mentali maggiori che farlo al chiuso. A sostenerlo è una revisione di 11 studi per un totale di 833 soggetti adulti esaminati, pubblicata su Environmental Science and Technology da un gruppo di ricercatori della Peninsula College of Medicine and Dentistry del Regno Unito, in collaborazione con lo European Center for the Environment and Human Health. Rispetto all'esercizio al chiuso, chi si muove all'aperto afferma infatti di sentirsi, dopo l'allenamento, maggiormente rivitalizzato, energico e positivo, e dall'altro lato meno teso, confuso, nervoso e depresso. Non solo, chi fa sport all'aria aperta risulta più propenso a partecipare alle sedute di allenamento successive rispetto a chi effettua allenamenti al chiuso. Da Salute 24, dove potete ritrovare anche la ricerca al completo, ma in linea con noi abbiamo il professor Michelangelo Giampietro, medico specialista in medicina dello sport e in scienza dell'alimentazione. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi e a chi ci ascolta. Professore, lei è un po' in vacanza o no? Sto andando. Ecco. Professore, volevamo commentare con lei questa ricerca perché l'abbiamo detto tante volte che praticare attività fisica aiuta proprio a staccare un po' la spina, ha numerosi benefici, tra cui quelli a cui facevamo riferimento col professor Manfredini, regala quella sensazione di piacevole benessere. Ma, professore, sembra che farla all'aria aperta abbia una marcia in più, regali una tua in più. Penso proprio di sì, anche per esperienza personale, c'è una maggiore ossigenazione, c'è un orizzonte anche visivo più ampio, ci si guarda intorno e si può osservare il mondo che ci circonda, soprattutto quando è particolarmente piacevole, come nelle circostanze in cui l'attività fisica viene fatta in un parco, in un giardino, ma anche in città. Io penso quanto piacere ci possa essere nel correre in una città come Roma, dove vivo, in qualunque altra delle tante belle città d'Italia. È sicuramente una marcia in più, una spinta in più, e poi c'è solo l'imbarazzo della scelta, si può fare qualunque attività fisica, tutto in proporzione adeguata allo stato di salute di ciascuno di noi, all'età e anche al piacere di fare un'attività piuttosto che un'altra. Possiamo cominciare dalle più semplici, quelle anche meno impegnative, che vengono praticate correntemente all'aria aperta nei parchi. Penso ad esempio al Tai Chi Chuan o a tutte le ginnastiche dolci della tradizione e cultura orientale, anche lo yoga stesso, ma poi possiamo fare delle belle passeggiate con un passo più o meno sostenuto, aiutandoci anche con i bastoncini da sci, tipo da sci, quindi il Nordic Walking, fino alla corsa. C'è la bicicletta, ma c'è anche la possibilità di andare a cavallo, fare anche la ginnastica semplice a corpo libero all'aria aperta con un parco intorno a noi. Ecco, io aspetto quando i miei esperti mi dicono così, parco eccetera, mi arriva subito l'ascoltatore "oggi non lo faccia", che mi scrive "come con l'aria inquinata delle città". Ecco, professor Michelangelo Giampietro, se lei dovesse rispondere all'ascoltatore che tra poco mi manderà il messaggio, lo sono, perché consigliate di fare attività fisica all'aperto quando l'aria delle città è inquinata, lei che mi dice? Ma le dico che non tutte le città hanno dei livelli di inquinamento così alti da giustificare questa preoccupazione. Comunque negli ambienti chiusi ci sono altre sostanze inquinanti che possono creare problemi. Uno per tutti, il più banale, la polvere per gli allergici. All'aria aperta ovviamente questo non problema c'è. Non c'è, certo c'è quello dell'allergia ai pollini nei periodi di impollinazione, ma insomma, comunque i benefici dell'attività fisica sono superiori agli eventuali rischi. Sempre, comunque, sempre, dove lo facciamo e che tipo di attività fisica. Dobbiamo vincere quindi la pigrizia. Professore, grazie per essere stato con noi. Buona giornata, buon relax. Professor grazie Manfredini, invece attività fisica, sì, c'è anche questa sorta di piacevole dipendenza, ma rifacendoci sempre alla cronobiologia, c'è anche un'ora ideale in cui fare o evitare di fare attività fisica, oppure sceglierne una che vada meglio per quel tipo di momento della giornata. Certo, intanto rilacciandomi a quello che diceva il collega in precedenza, fare attività fisica all'aria aperta implica anche una diversa illuminazione. Non ricordiamo mai, non dimentichiamoci l'importanza della luce, per quanto la luce artificiale sia importante, sì. La luce solare è tutta un'altra cosa. L'uomo è fatto per dire luce, attività, buio, riposo, quindi melatonina, un sacco di neurotrasmettitori, complessissimo. L'attività muscolare, correre, fare uno sport fisico, ore pomeridiano serali, indubbiamente, sia dal punto di vista agonistico, ma anche solo dal punto di vista del leisure, del tempo libero. L'unico consiglio è, ecco, chi vuole fare un'attività fisica non la faccia particolarmente pesante nelle ore serali, la faccia più leggera, la faccia pesante nel pomeriggio, perché altrimenti questa liberazione di endorfine fa sì che è come prendere il caffè, alla sera poi non si dorme. Ecco, vedi, queste sempre ritornano queste endorfine. 800 24 00 24. Essere e benessere. Adesso tocca a voi, anche se parleremo anche di terra e di fuoco. Abbiamo in linea con noi Daniela da Verona e Francesco dalla provincia di Padova. Daniela, buongiorno. Buongiorno. Dunque io mi riallaccio al discorso che avete appena fatto. Sul fatto di trovare dei momenti di relax e come trovarli. Sì, lei li trova. Diciamo che è stata molto importante la meditazione che ho fatto per anni, e quindi mi riallaccio anche al suo discorso sull'importanza della visualizzazione. E io trovo che è molto importante anche sapere, attraverso la meditazione, saper essere presenti e saper vedere quello che abbiamo e gioirne. È vero, guardare anche i dettagli. Daniela, stavo oggi, uscivo dalla metropolitana ed ero come sempre quando si viene a lavorare, no? Uno dice devo fare questo, devo fare l'altro, chissà come andrà la puntata, ci saranno tutti gli ospiti eccetera, poi ho guardato in alto e ho visto questo cielo dove c'erano queste nuvole bianche che erano, ecco, e lì mi sono ho detto, ecco, guarda, c'è sempre un dettaglio nel corso della giornata dove se ti cade l'occhio ti dà un po' la direzione o ti dà un'emozione che in qualche modo ti aiuta. Grazie alla nostra ascoltatrice per questo spunto, dottoressa Piccini. Sicuramente la meditazione, anche se aiuta, anche se molti di noi dicono ma la meditazione è una cosa complicata, complessa, non arriveremo mai. Meditazione sì, assolutamente sì. È complicata nel momento in cui la frenesia della vita quotidiana non ci dà il tempo di trovare e di ritagliarci dei momenti, degli spazi. Meditazione però vuol dire, non vuol solo dire trovare i 20 minuti o mezz'ora da dedicare esclusivamente alla meditazione, ma come dicevi tu Nicoletta, è soffermarsi, come diceva la nostra ascoltatrice, soffermarsi momento per momento, quindi nell'ic e nunc di quello che sta succedendo nel nostro presente, sui dettagli, sulla concretezza delle cose. Da fate qui la cadere, terra, ecco, da qui la terra. In linea con noi abbiamo il dottor Filippo Ongaro, vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging, autore di Mangia che ti passa, uno dei nostri esperti del Daily Lab. Dottor Ongaro, auguri e bentornato. Auguri anche a voi, buongiorno Nicoletta. Allora, la terra, noi obiettivo relax, lei sa bene dottore che ciascuno declina questa parola in modo diverso, ma a proposito di terra, noi la terra ci dà, no? Sostegno, ci dà energia. La terra ci dà tantissime cose Nicoletta, e io ve lo racconto oggi da un posto fantastico. Io sono in mezzo al mare del nord, in una bellissima isoletta dove ci sono solo dune, foresta e vento, e è sicuramente un posto che ti ricarica veramente da testa a piedi, e quindi la natura ha sicuramente un ruolo molto importante in tutto quello che riguarda il rigenerare l'energia che consumiamo durante le giornate intense di lavoro. E la terra, non dimentichiamocelo, è anche quello che ci fornisce gli alimenti più adatti a rigenerare le nostre riserve metaboliche, quindi pensiamo agli alimenti più genuini possibili che la terra ci offre, e anche alla stagionalità da seguire con molta attenzione, cosa che in gran parte abbiamo perso, ma insomma pensate alle verdure che sono tipiche di questo periodo, a partire dalle verdure crucifere che sono fondamentali per tutta la detossificazione, e passando attraverso la frutta di questo periodo come le arance e i kiwi, importantissimi per la vitamina C. Quindi la terra è nostra amica e ci dà un grande aiuto nel rifornirci le energie che consumiamo. Dottor professor Manfredini, quindi terra inteso anche come ritmi della natura. Certo. E lì, e qua la cronobiologia ci va a nozze, o no? Il collega che invidio molto. Sì, beh certo, abbiamo tutti avuto, noi abbiamo, siamo ci siamo verdi, guardati con, un con gli occhi, e gli abbiamo augurato cose tremende. Sì. Ma non vedrà, no, vedrà. Buonissimo. Ha parlato di stagionalità. Sì. E quindi uno dei ritmi principali, oltre ai circadiani di cui abbiamo parlato, sono proprio i ritmi stagionali. Già lo diceva Ippocrate che bisogna guardare le stagioni, perché ogni stagione ha i suoi ritmi, quindi ha centrato in pieno un argomento anche della cronobiologia di attualità. E lì, dottor Ongaro, laggiù al freddo, perché noi adesso siamo un po' invidiosi, farà molto freddo. Se io le dico fuoco invece? Se mi dici fuoco penso subito a una bella sauna che qui è molto popolare e che quindi ti permette di fare questi passaggi a volte anche bruschi ma molto energizzanti da un clima freddo al fuoco e al calore, che invece sono vasodilatatori e possono portare ancora una volta, come dicevo prima, ad un beneficio di detossificazione. Volevo tra l'altro dire, Nicoletta, perdonami un secondo, volevo fare un saluto al professor Manfredini, perché lui non si ricorda di me, ma io mi ricordo di lui molto bene, perché è stato un mio docente all'Università di Ferrara qualche anno fa, quindi vedi, lo saluto con un incontro, sembra una carambata. È un grande piacere, ciao, a presto allora, poi mi porti via al mare del nord. Assolutamente. Ma bello, grazie dottor Ongaro, poi mi dirà come, quando è dietro la cattedra questo professor Manfredini, perché quando sono così simpatici fuori, poi con gli allievi sono veramente picchiano duro. Dottor Ongaro, grazie, buona giornata. Grazie, ma a voi, a presto. Io dico fuoco anche di passione, di interessi, di amore, dottoressa. Certo Nicoletta, perché il fuoco ci fa venire proprio in mente il fatto di coltivare per il nostro benessere le nostre passioni, i nostri interessi, e provare a svilupparne di nuovi, perché certo, questo ci fa essere ancora una volta in armonia con noi stessi e ci fa sviluppare quel benessere psicofisico di cui abbiamo parlato dall'inizio della puntata. E ad esempio, tra le passioni, una delle passioni che mi viene proprio in mente è la passione per la musica. E a proposito di musica, in linea con noi abbiamo Roy Paci. Ciao! Ciao Nicoletta. Ma qua ti aspettavano, tutti, perché io me la sono fatta un po' quella. Sì, poi in chiusura abbiamo Roy Paci e tutti, wow, hai capito, wow. Per te la musica è una vera passione, che è nata tra l'altro quando tu eri piccolissimo. Ma è iniziata ovviamente con un interesse poi che la famiglia stessa ti ha trasmesso, essendo tutti musicisti, sia mio padre che mia madre, musicisti comunque diciamo un po' dilettanti anche, perché loro avevano la loro professione e mi hanno appunto subito da piccolino introdotto nel mondo della musica. Avevo 4 anni e mezzo quando iniziavo a suonare il pianoforte, per poi proseguire a 10 con lo studio della tromba, del mio strumento che poi è rimasto. Certo, noi tra l'altro cosa stiamo ascoltando? Ma pensa a te, guarda che sorpresa. Ma guarda che altra carambata. Senti, però tu sei raffreddato. Sono parecchio raffreddato, esco fuori da un ciclone cosmico di raffreddori che non mi ha lasciato veramente un attimo di pace in questi giorni. Vabbè, meglio così, no? Mi sono fatto queste festività. Bravo, così uno se lo toglie. Adesso tra l'altro però ci sono per te degli impegni incalzanti. Io volevo chiederti come ti rilassi, ma per uno come te che è sempre in giro, sempre alle prese con concerti, impegni, eccetera, che fai tu? Guarda, questa è una cosa che molte persone mi accusano di non fare, cioè il godermi del relax vero e proprio, ovvero sia la parola vacanza non rientra in quello che è il mio dizionario di vita. L'ultima vacanza che ho fatto è stata esattamente 2 anni fa, mi sono allontanato in un posto che poi tra l'altro frequento spesso, che è il Brasile, per circa un mesetto, ma quella vacanza arrivava dopo 7 anni di non vacanza fatta, anche perché il mio divertimento assoluto, grazie al cielo, è anche la mia professione, quindi ho il privilegio di godere di un mestiere, di un lavoro vero e proprio, che è poi anche la mia grande passione, ma da sempre che non riesco a disinnamorarmi di questa meravigliosa esperienza di vita che poi ti permea, che è la musica, insomma, no? Cioè che ti attraversa. Però effettivamente i momenti di relax fanno bene, anche perché poi ogni tanto nella vita si raggiungono quando si è troppo saturi, tocchi un livello esagerato, magari anche delle complicazioni proprio a livello di stress e di superaffaticamento dal lavoro, quindi cerco in tutti i modi di trovare qual è il miglior modo per poter veramente godermi di un momento di sano relax, o addirittura proprio entrare in uno stato quasi di training autogeno, che fa anche bene, no, per la nostra professione. Assolutamente, qua c'è la dottoressa Piccini che ce lo suggeriva. Senti, però a proposito di musica, di passione, di luoghi in cui rigenerarsi, tu domani sarai in concerto a Barcellona Pozzo per le popolazioni alluvionate, no? Esattamente, questa è una bella cosa, secondo me, molto rigenerante, buttarsi questo anche in vetro. Rigenera moltissimo, questo proprio più che rigenera, proprio lubrifica l'anima, direi. Questo è un momento che poi nasce in maniera del tutto spontanea e che durante appunto i giorni post alluvione abbiamo messo su, perché sono stato con i ragazzi, abbiamo spalato il fango un po' tutti insieme e ci siamo resi conto che si poteva fare qualcosa. La semplice telefonata a tutta una serie di colleghi musicisti in giro dell'Italia, e chi era ovviamente disponibile, ha fatto sì che poi tanta gente domani, tanti artisti possono condividere con noi questo momento di solidarietà e soprattutto per raccogliere un po' di soldini per quelle persone che hanno veramente tanto bisogno. E questo ti assicuro che è un'altra forma di relax. No, diciamo, ma lo credo, sì, perché noi abbiamo bisogno anche di ricaricarci, e esperienze di questo tipo, esperienze positive, anche vedere che c'è gente che si muove, come la passione si sente, come si dice a Radio 24, è assolutamente ricaricante. Roy, vorrei invitarti un giorno qua in studio con noi, per cui devi smettere. Io sarei ben felice. Va bene, lasciamoci con questa promessa per il prossimo anno. Grazie, in bocca al lupo. Se poi qualcuno vuole fare vacanza giù in Sicilia, che poi è uno dei luoghi che ovviamente, nonostante io non vivo più lì, ma amo tantissimo, c'è uno dei posti che dove veramente raggiungo la trance estatica, che è la Sicilia, Marzamemi. Grazie a voi, a domani. Essere e benessere.